Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. No, oggi non parleremo di lavoro, ce lo chiedono. Innanzitutto buongiorno, 8:15 e abbiamo affrontato molte tematiche legate alla disoccupazione giovanile e alla possibilità di inserimento di chi un lavoro non ce l'ha, nonché alle condizioni di chi lavora. Non è esattamente il tema di oggi, cambieremo pagina. Però sul Sole 24 Ore, visto che siete assettati giustamente di avere più informazioni su questa tematica che non risparmia nessuna famiglia in Italia, oggi sul Sole 24 Ore c'è la prima puntata della guida al DL Lavoro e quindi lì potrete leggere tutto ciò che riguarda la proroga per i contratti a tempo determinato senza causale, le agevolazioni per il distacco dei lavoratori delle imprese in rete, i nuovi limiti all'utilizzo del lavoro a chiamata, insomma le novità più rilevanti di tutto il decreto. Noi oggi ci occuperemo ancora una volta della differenza tra ciò che è percepito e ciò che è. Affronteremo un'altra pagina, quella che veniva definita una volta la terza età. Ora li chiamiamo gli ANTA. Proprio così, gli ANTA, perché è un segmento della popolazione destinato a crescere. Arriveremo al 30,2%, è stato calcolato dai demografi nel 2050, quindi un italiano su tre avrà più di 65 anni, eppure abbiamo questo approccio verso questo segmento della popolazione costellato di cliché. Il cliché dell'anziano col bastone da aiutare quando attraversa. Siamo sicuri? È davvero l'immagine fedele di una parte della popolazione che è sempre più attiva fisicamente, mentalmente, economicamente, viene corteggiata dai direttori del marketing di ogni azienda? Cioè, come tendenza, sono liberi da mutui, debiti. Noi ci ostiniamo invece a sminuirli, a mancare di rispetto verso gli ANTA. Sono persone che vanno guidate addirittura nelle loro scelte sentimentali, perché ci sono scelte sentimentali e sessuali anche dopo gli ANTA, tutte tematiche che affronteremo per capire un po' come correggere il tiro su un altro dei tanti cliché che ci attraversano. Bello, solenne, si capisce che questa poesia waka tradizionale deve avere un significato molto profondo. Cerchiamo di tradurla adesso, cerchiamo di avere qualcuno che ci venga in aiuto. Ohayo Tetsuro. Ohayo, buongiorno. Buongiorno, sì. E Tetsuro Akanegakubo è sì. Il giornalista giapponese che oggi intervisteremo nella nostra rubrica Visti da Fuori per capire come viene raccontata l'Italia. Tra l'altro tu scrivi per The Sakai Shimpo, per il quotidiano The Sakai Shimpo, e per l'equivalente sì. Del Sole 24 Ore, diciamo così. No, quello è Nikkei. Sakai Shimpo è equivalente, non so, un piccolo giornale politico. Esatto, ma oltre al Sakai Shimpo scrivi anche sul Nikkei. Nikkei, sì. Quanto tira il Nikkei in Giappone? Nikkei è su 4 milioni e mezzo al giorno. 4 milioni e mezzo di tiratura su una popolazione totale di? Di 11 milioni. No, già 110 milioni. Forse 110. 110, sì. Sì, sui 110 milioni. 11 milioni è Tokyo. Solo Tokyo. E poi sì. 11 milioni è anche la tiratura di un altro noto quotidiano giapponese, la Fashi. Sì, sono altri due, cioè Asahi Shimbun e Yomiuri Shimbun. Più o meno qui è Corriere della Sera e la Repubblica, no? Beh, con numeri di tiratura e distribuzione, cioè da capogiro, sì. Veramente impensabili in Italia. Noi sì. Parliamo del Giappone poco in Italia e solo sì. In occasioni di calamità a volte, per esempio troppo, sì. Recentemente questa nuova perdita di acqua altamente sì. radioattiva da Fukushima, è stato l'allarme internazionale. E in Giappone come è stata vissuta questa emergenza? In Giappone sì, ma è poco, perché purtroppo i giapponesi hanno caratteristica di dimenticare, perché sono abituati a con il disastro naturale, da ciclone, tutto qua, da terremoto. Quindi adesso ne ha parlato poco, certamente è un grosso problema, quindi solo che il popolo normale giapponese si è interessato non tanto, certamente preoccupato, ma non tanto. E quindi la TEPCO, questa società che gestisce la centrale, ha ammesso recentemente, per chi non avesse seguito questa vicenda, che ogni giorno centinaia di tonnellate di acqua radioattiva finiscono in mare, e la classificazione di questo incidente è stata livello 3 su una scala che va da 0 a 7, quindi grave ma non d'allarme massimo secondo i criteri occidentali. E questo è stato un elemento di stupore. Tu invece di cosa hai scritto recentemente per le testate per cui collabori? Sì, proprio l'ultimo è il decreto contro il femminicidio. Questo era stato l'ultimo. E poi hai parlato anche, essendo agosto, di vacanze. Vacanza, sì, sì. E vacanza che gli italiani sono diminuiti, e anche la spesa, dice che secondo il giornale italiano prima spendeva 1000 euro in più, adesso invece 900 euro, per due settimane, quindi poco, ma per i giapponesi due settimane vacanza è un sogno, quindi io ho dato notizia a più beati italiani che no. Cioè, tu ti sei occupato di questo taglio drastico legato alla crisi delle abitudini, di quello che gli italiani considerano una sorta di diritto naturale, cioè la vacanza, e dell'allarme che ha causato questo, questo stare a casa, anche perché il 55% degli italiani quest'anno sembra che non abbiano potuto fare nemmeno il weekend fuori porta. Infatti, la media è stata sulle due settimane di vacanza, grande allarme. Tu invece nel tuo articolo hai scritto quasi beati gli italiani che possono lamentarsi di due settimane di vacanza. Ma quante vacanze sono concesse a un lavoratore giapponese in un anno? Allora, come è la legge, i ferie hanno 20 o 25 giorni all'anno, questo sì, ma in realtà non prendono ferie, preferiscono lavorare. Estate massimo una settimana, questa settimana di Ferragosto, anche in Giappone chiudono massimo una settimana. È la festa del buddismo il 15 agosto? Sì, tornano da al di là spiriti degli antenati e poi se ne vanno dopo tre giorni. Vanno a mangiare gli antenati, però scalpitano per tornare a lavorare. Un paese dove il governo ha dovuto aumentare i giorni festivi per obbligare i lavoratori a prenderseli, incredibile. Cioè, e quindi ha detto loro: se la festa cade di domenica, noi abbiamo delle festività, e se cade di domenica dovete stare a casa anche il lunedì. Perché è vero che in Giappone si registra un'alta incidenza di morti sul lavoro, ma non come incidenti, per stress, per infarto, per eccesso di carico? Sì, infarto, oppure anche come si dice, ictus cerebrale, perché uno che ha lavorato una settimana, non mi ricordo, 200 ore, cosa del genere, e poi c'è tanti depressione, quindi suicidio dovuto a depressione che viene dal lavoro. Ma la settimana lavorativa giapponese di quante ore? No, ore sono 40 ore. 40? Sì. E allora perché questo carico eccessivo? No, allora perché prima di tutto ci sono questi precari che nonostante 40 ore tocca lavorare. Poi in Giappone quando diventa dirigente va al di fuori della legge, questa legge obbligo. Quindi cioè il dirigente lavora e spontaneamente possono fare lavorare di più. Sì. Di più. E proroga, questa è una cosa nota a chi ha a che fare per lavoro con i giapponesi, proroga ben oltre l'orario di lavoro e i suoi impegni, quindi continua a coltivare i clienti, le relazioni, i rapporti, li porta a cena e poi rimane con loro fino a notte inoltrata e questo sta causando dei grossi incidenti legati al troppo lavoro. Tra l'altro le vittime non sono... L'anno scorso è stato 30.000 suicidi in tutto il Giappone. Vabbè, ci sono anche la vittima. Eh beh, è una cifra Però veramente che lascia senza parole. Ma le vittime di questo stress da lavoro che porta a a questo consumo, a questo logoramento proprio dell'organismo, tra l'altro sono molto giovani, relativamente giovani, cioè hanno in media 40 anni anche meno questi sì, manager. anche meno, sì. L'età che lavora anche per il futuro, quindi poi adesso c'è questo problema dei precari, ma anche chi fa, perché in Giappone queste aziende assumono certi numeri di giovani, poi fanno fare gara per far diventare la carriera interno. Certo. Per questo, sì, se altro rimane a lavorare, dici io non posso tornare perché così domani Accendono questo perde. meccanismo della competitività, della rivalità tra È lavoratori, molto forte, molto sì. forte. Ma è una parte perché meno raccomandazione. Sì, Se tu dici, dimostra bravo, sì, è chiaro, meritocrazia troppo è un elemento meritocrazia. della meritocrazia. Sì, solo che con questo fanno, come si dice, fare gara di lavoro e di risultato, quindi chi non riesce a fare risultato viene anche depresso, viene depresso. E quindi questa notizia che ha colpito tantissimo noi occidentali dello stagista londinese che dopo aver lavorato per 3 giorni di fila ha pagato con la vita questo prezzo per mettersi in mostra, appunto, essendo Purtroppo ricattabile, sì. essendo precario, per voi è abbastanza, non è così fuori dalla norma in Giappone. No, no, si cerca di proteggere, ma l'altra parte dice che per riprendere l'economia È un bisogna prezzo da lavorare. pagare alla ripresa dell'economia. Sì. Shinzo Abe Anzi, insegna. la politica di Abe è di liberalizzare ancora di più di queste cose qua. E quindi anche togliere maggiori tutele ai lavoratori. Tu poi hai detto, hai parlato di femminicidio in un articolo. Come è vissuto questo fenomeno del femminicidio? Qui è stato ribattezzato femminicidio in Italia. In Come è Italia. stato presa dall'opinione pubblica giapponese? Qualcosa di lontano da voi? Esiste qualcosa di equivalente? Sì, allora, in Giappone, quanto riguarda quello cioè, violenza in famiglia, ce n'è tanto, ma suicidio, cioè omicidio dopo divorzio è molto poco. La maggior parte dell'omicidio per le donne vengono fatti dai fidanzati lasciati o cose del genere, in ogni caso da stalker, questo è di più, mentre in Italia quei, non so, gli uomini italiani sono, non so, non so, più caldo di testa, perché una volta divorziato, anzi, forse peggio, perché tanti mariti giapponesi non passano nemmeno al niente e dimentica Ah, si che sono dimenticano moglie. completamente della vita precedente, non passano alimenti, non passano Tanti, sì, e voltano pagina. Che il problema è più questo che la ex marito violenza viene, dopo. sì, E una volta divorziato. avete una legge anti-stalking? Sì, è più o meno come l'italiana, non quello ultimo, ma quello prima. Perché anche prima c'era un atteggiamento da parte della polizia giapponese di non intromissione Sì, quasi sì, sì. nelle faccende familiari, ignoravano le denunce delle donne, poi. Sì, perché è la usanza che non interviene a fare familiari la forza d'ordine o lo pubblico. In ogni caso, questo è da 2 o 3 anni è cambiato, ma in ogni caso è. Cambiato in seguito appunto all'omicidio di giovani donne che avevano denunciato in precedenza, un punto di contatto tristissimo tra la realtà italiana e la realtà giapponese. Tetsuro Akanegawa Kubo, se tu potessi, così visto che la conosci bene il nostro paese, ci vivi dal 77, importare qualcosa, a parte le vacanze, abbiamo capito, a Tokyo, dare una lezione di italianità ai tuoi connazionali, cosa mutueresti dall'Italia? Allora, l'Italia penso una parte molto bella è l'individualismo degli italiani. In che senso? Poi, sì, i giapponesi si muovono molto in gruppo, quindi è facile da viene influenzato come gruppo, quindi poi un'altra cosa di italiani bello è l'iniziativa, no? Che hanno gli italiani singoli. Poi tolleranza, gli italiani sono molto più tolleranti dei giapponesi. Grazie, sì. E quindi è un altro di quegli aspetti che viene sottolineato da diverse angolature dai nostri corrispondenti che vivono in Italia, per alcuni ha un'accezione positiva e per altri negativa. Ieri ci ricordava l'argentino come venga vissuta negativamente la tendenza all'individualismo degli italiani in un confronto con la popolazione argentina, e oggi il nostro corrispondente giapponese invece vorrebbe fare incetta di questo spirito che porta anche all'iniziativa individuale per curare un po' la tendenza dei giapponesi all'assimilazione, all'omologazione. Chiaro, si sta generalizzando in poche parole, in pochi minuti, non è possibile raccontare fino in fondo un popolo e una cultura, soprattutto una cultura millenaria, ma senza dubbio alcune tendenze possono essere identificate. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. 34 minuti dopo le 8 e ci spostiamo sui banchetti, proprio così, sui banchetti che in giro per l'Italia stanno raccogliendo le firme per un pacchetto di referendum. Di alcuni si è parlato, di altri un po' meno, sono passati un pochino in sordina. Tra i referendum infatti proposti dai radicali, quello che forse ha ottenuto maggiore attenzione è quello sull'abolizione del reato di clandestinità. Ma ce n'è un altro di cui dibatteremo oggi, molto importante dal punto di vista culturale, perché va a toccare, va a urtare decisamente un certo tipo di sensibilità, ma dall'altra forse metterebbe l'Italia al passo con i tempi e con le richieste della Corte Europea di Strasburgo. Sto parlando dell'abolizione dell'ergastolo. Buongiorno Giuseppe Rosso di Vita, buongiorno. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Giuseppe Rosso di Vita è un avvocato penalista e componente del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani. E dunque ci spieghi di che si tratta, cosa state chiedendo, per cosa state raccogliendo le firme? Sì, molto semplicemente su questo tema sono 12 referendum, come lei diceva. Nel pacchetto denominato giustizia c'è un quesito referendario che tiene semplicemente all'abolizione della pena dell'ergastolo, cioè di quello che tra i detenuti e tra gli addetti ai lavori viene definito fine pena mai, cioè l'impossibilità di uscire dal carcere una volta che vi si è entrati. Questa pena, come diceva lei, a nostro avviso innanzitutto è una pena che non è in linea già e solo, basterebbe questo, con la nostra Costituzione. Noi sappiamo che l'articolo 27 della Costituzione prevede la rieducazione del condannato. La pena, nonostante ci siano, lei diceva molto bene, si tratta di un problema culturale. La pena per chi commette dei reati non deve essere la vendetta, lo Stato non può vendicarsi. La pena deve consistere nella rieducazione del condannato, nella risocializzazione del condannato, nel recupero da parte della società, da parte dello Stato, di chi ha sbagliato. Ma questa funzione. Ma prego. Scusi, avvocato, un referendum in questo senso c'è già stato nel 1981 in Italia e decisamente. Sì. Non è passato, prevalsero i no, ma con percentuali proprio plebiscitarie. Non credete che forse si ripeterà? Cosa vi fa pensare che non sarete isolati su questa richiesta? Ci fa pensare il fatto che appunto era il 1981, oggi siamo nel 2013, si tratta di mettersi in linea con una serie di paesi nel mondo ed anche europei che in termini di diritto hanno abolito del tutto l'ergastolo, penso alla Spagna, al Portogallo, oppure in termini di fatto non prevedono il fine pena mai, E si tratta evidentemente di dibattere di questo tema. È chiaro che se l'informazione non ci aiuta, da questo punto di vista la vostra opera questa mattina è meritoria, a dibattere di questo tema, a far comprendere che l'ergastolo non può più esistere, a nostro avviso, in uno Stato e in un paese che voglia dirsi effettivamente civile, chiaramente non si riuscirà a smuovere quel substrato culturale che ancora oggi purtroppo tutto sommato penso sia prevalente. Guardi, faccio un esempio molto semplice. Sì. Ieri leggevo la notizia del vigile del fuoco volontario che aveva appiccato il fuoco in provincia di Isernia. E c'era sulle pagine online dei giornali appunto la videoripresa di questo volontario dei vigili del fuoco che andava ad appiccare il fuoco commettendo un reato molto grave. I commenti dei lettori in calce a questa notizia erano: buttate le chiavi, in galera, ergastolo, buttate, non lo fate più uscire. Perché c'è questo sentimento prevalente, problema, questa esasperazione a volte degli italiani, a volte determinata però anche da un certo tipo di informazione, me lo lasci dire questo. Il problema è più utile a noi far sì che quella persona non esca più dal carcere, o è più utile alla società e a quella persona per esempio utilizzarlo nel rimborsimento? Cioè fargli scontare una pena adesso sul vigile del fuoco che diventa piromane è veramente un caso forse questo è un vecchio problema, perché sono i volontari dei vigili del fuoco, certo, che in qualche modo per comunque aver, poco emblematico della categoria dei vigili del fuoco. Avvocato, rimanga con noi, perché abbiamo capito: superare il concetto di pena come vendetta sociale, questo alla base della richiesta di abolire il carcere a vita. Tra l'altro, l'ha ricordato, in molti paesi europei e non solo europei l'ergastolo non è previsto neppure come ipotesi, il fine pena mai non è previsto. Si è fatto portabandiera di questo principio anche nei suoi primi mesi di pontificato, è stato anche un atto importante. Anche questo è passato un po' in sordina, perché molti si sono chiesti: ma quanti ergastolani ci sono in Vaticano? Papa Francesco ha abolito proprio l'ergastolo e questo è stato un segnale. Quanti ergastolani ci sono in Italia, avvocato, in questo momento? Ma di ergastolani noi dobbiamo distinguere, perché l'ergastolo semplice in Italia, definiamolo in questo modo, in realtà dopo 26 anni di pena può venir meno attraverso la liberazione anticipata, quindi dopo 26 anni si può effettivamente uscire dal carcere, questo nella maggior parte dei casi. Dopodiché c'è il cosiddetto ergastolo ostativo, cioè quell'ergastolo che viene comminato in relazione alla commissione di alcuni reati particolarmente gravi, che nega ogni beneficio penitenziario, che nega ogni beneficio, ogni possibilità di accedere appunto poi a misure alternative o di limitazione, tranne che ai pentiti. Queste persone sono circa 1700 in Italia, circa 1700, di cui 26 donne, 1700 persone che usciranno allo Stato dal carcere, come si usa dire con un'espressione molto cruda, solamente con i piedi in avanti. Sì. Tant'è che voglio dire, l'ergastolo da questo punto di vista è una pena di morte, cioè è una pena che porta alla morte, e noi dobbiamo pensare, e l'esempio del piromane di cui parlavo prima in questo senso ci aiuta, dobbiamo pensare proprio ad un sistema penale diverso da quello che prevede solo il carcere come sanzione appunto penale, e quindi come sanzione che la società impone. Cioè c'è un bisogno di una revisione più complessiva, di una decarcerazione. Lei dice. Va bene, ma avvocato, poi andremo naturalmente anche nel merito di queste riforme o cambiamenti di mentalità, abbiamo detto che è soprattutto culturale il problema. Prima però mettiamoci dalla parte dell'altra sensibilità, perché ci sono anche i familiari delle vittime, le loro richieste. Quando qualcuno ha perso un caro per un delitto particolarmente efferato, crudele, ecco, tende a chiedere questa sorta di chiamiamolo risarcimento per il dolore. E c'è questa percezione di impunità in Italia, molto diffusa, ma corrisponde alla realtà? Qual è la fotografia dell'Italia dal punto di vista del crimine? Claudio Giusti, buongiorno. Buongiorno. Ecco, Claudio Giusti è il fondatore di Amnesty International, cofondatore del World Coalition Against the Death Penalty, Amnesty International Italia, aveva la tessera 001, si occupa da 40 anni di diritti umani ed è una sorta, purtroppo un paese questo che tiene poche statistiche, pochi numeri, e lui è una sorta di enciclopedia vivente, posso definirla così? Piccolissime parte. Si schernisce giustamente, ma ora facciamo una fotografia dell'Italia non solo dal punto di vista delle pene e del crimine, c'è una grande percezione di insicurezza. Sì, purtroppo sì, ed è l'esatto contrario di quello che è accaduto, perché noi siamo passati dai 2000 omicidi del 1991 annui, ai 500 di oggi, cioè rispetto a 22 anni fa, praticamente un calo come non si è mai visto. 2000 omicidi nel 1991, 500 pensate nel 2013, eppure la percezione non solo strisciante ma proprio palese, ovvia in Italia è quella di una sorta di mancanza di giustizia. Perché? Come la spiega? Beh, in parte c'è l'effetto devastante di queste trasmissioni del pomeriggio, che sono trasmissioni televisive morbose, c'è una notevolissima disinformazione, e poi c'è il fatto che alcuni casi magari eclatanti vengono, come dire, pompati, perché poi ci sono anche, è in corso una vera e propria guerra in Italia attorno alla giustizia, quindi senza entrare troppo nei dettagli, lo sappiamo tutti. Come vanno queste cose, l'abbiamo visto adesso con il femminicidio, il problema c'è, ma da 10 anni a questa parte ci sono 150-200 omicidi di donne all'anno, e la cosa non aveva suscitato particolare interesse. Adesso addirittura si fa un decreto legge. Qui siamo, non dico all'isteria, ma quasi. Beh, io credo che invece sia un adeguamento necessario e a tutela di quella che è una situazione finalmente diventata intollerabile, che forse prima si prendeva così come un prezzo da pagare alla vita coniugale burrascosa ogni tanto. Ma anche qui andiamo nel culturale. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Ecco, c'è chi ci scrive, io i referendum radicali li firmerò tutti tranne questo, perché in Italia, ci segnala, questo è Francesco da Firenze, invece da Udine ci segnalano come in Italia le pene, sì, vengano combinate, poi in realtà non vengono mai scontate fino in fondo. Noi adesso ci spostiamo in Norvegia. Perché quando ci fu il caso Breivik, lo ricorderete, tutti rimasero stupiti nello scoprire che non era prevista né l'ergastolo né la detenzione a vita per questo signore che adesso sta scontando 21 anni di prigione. Furono 8 i morti a Oslo, ve lo ricordo, e quei giovani impegnati laburisti sull'isola di Utøya che lui decise di sterminare furono 69. Era il 22 luglio del 2011. E ci spostiamo nell'ambasciata italiana in Norvegia, dove ci aspetta Tommaso Andria, consigliere. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Stiamo cercando di capire come funziona in Norvegia il sistema penitenziario. Sembra che questa sentenza, questa condanna a 21 anni per Anders Behring Breivik, è stata accolta bene dall'opinione pubblica. Sì, confermo che in Norvegia la pena massima prevista dal codice è di 21 anni per i reati comuni. In realtà è possibile essere condannati a 30 anni per il reato di genocidio, ma insomma sono casi particolari. Quindi chi si rende responsabile di omicidio o stragi in Norvegia rischia 21 anni e la pena massima è nuovamente comminata. Va anche detto però che il sistema norvegese ha previsto ormai da una decina d'anni un meccanismo, diciamo, di garanzia della società, così lo definisco, no? Cioè non c'è l'ergastolo, ma c'è un meccanismo di garanzia. C'è un meccanismo di garanzia. In cosa consiste? Consiste in questo. Citando il caso Breivik come insomma caso tipico, Breivik è stato condannato a 21 anni di reclusione con il regime del cosiddetto forvaring, un termine che in italiano vedo, sto cercando di capire come tradurre, non abbiamo questo concetto. Potrebbe essere, ma non credo sia una traduzione felicissima, reso con quindi detenzione preventiva, cioè scontati i 21 anni. In realtà già dopo 10 anni il tribunale potrà valutare la pericolosità o meno di Breivik e confermare la detenzione per periodi di 5 anni che in teoria possono essere prorogati indefinitivamente. Mi spieghi se ho capito bene. Quindi sulla carta Breivik è stato condannato a 21 anni, passati i quali potrebbe accadere che in seguito a una revisione, immagino comportamentale, psicologica, sulla effettiva rieducazione del detenuto, la pena possa venire prorogata. Esatto, l'accusa potrebbe chiedere al giudice di prorogare la pena perché ritiene che il soggetto non si sia rieducato, quindi non sia reinseribile nella società perché convinto ancora delle sue convinzioni, potrebbe tranquillamente ripetere il reato e il tribunale potrebbe decidere quindi di comminare altri 5 anni. E qui di 5 anni in 5 anni, in teoria, è possibile che il Breivik... Quindi non è del tutto corretto dire che non esiste l'ergastolo, cioè non esiste l'ergastolo, cioè il carcere a vita, comminato al momento della sentenza, ma in teoria Breivik potrebbe In teoria è così. Diciamo in teoria perché questo istituto del forvaring esiste da 10 anni, quindi non ci sono ancora casi in cui il sistema sia stato messo alla prova. Quindi lo vedremo tra una decina d'anni se effettivamente questo forvaring possa in casi particolari tradursi di fatto in un carcere a vita. Però al momento ancora non lo possiamo dire. Tommaso Andrea, consigliere all'ambasciata italiana a Oslo, rimanga con noi, sentiamo anche un po' quali sono gli umori, le sensazioni, le domande dei nostri ascoltatori su questo tema. Pino, buongiorno. Pronto? Buongiorno Pino, è in onda. Buongiorno. Sì, a parte il miserabile deficiente norvegese che penso che in questa discussione non faccia testo, fa testo invece una riflessione. Cioè, noi parliamo di rieducazione in base alla nostra carta costituzionale, ma come si fa a rieducare un serial killer? Un killer di professione, ne abbiamo attualmente alcuni che hanno superato i 100 omicidi, killer della mafia. Con che senso ha parlare di rieducazione nei confronti di queste persone? Di uno stragista di professione, di un trafficante di droga? Trafficante sto parlando, non sto parlando certo di pusher, del piccolo spacciatore della piazzetta, quello che chiaro. È stato preso in Colombia, che non so quante tonnellate all'anno portava e avvelenava i paesi importatori di droga. Grazie Pino. Come si può parlare di rieducazione in questi casi? È la domanda sollevata al nostro ascoltatore. Sentiamo anche Gianluca, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno a voi. Sì. Buongiorno. No, io sono totalmente in disaccordo con quanto poc'anzi detto dall'avvocato. Quindi con la proposta di abolizione, dico bene? Lei è in disaccordo con un'eventuale abolizione dell'ergastolo? Abbiamo cose molto più importanti, anche se abbiamo qualche referendum di qualche anno fa sull'acqua, che per dire che è una cosa molto più importante, nessuno se l'è filato, pensiamo questo qui. Volevo fare una proposta rapidissima, fare un contro referendum per inasprire le pene e renderle più certe. Penso che abbia più successo rispetto a quello proposto dai radicali, che non trovo assolutamente fuori luogo, come diceva l'ascoltatore di... ci sono persone rieneducabili. Grazie, sì. Grazie a Gianluca. Allora, i radicali, Giuseppe Rosso di Vita, ha sentito questo tipo di richieste e di obiezioni. E il carcere, lei diceva, non deve essere una vendetta, anzi deve rieducare. Cosa risponde a chi le sottopone queste argomentazioni? Cosa rispondete come radicali veramente? Cioè, più che la sua opinione rispondiamo molto semplicemente, appunto, con la necessità di una scelta che sia preceduta da un ampio dibattito. L'interlocutore di Amnesty ricordava come la disinformazione in realtà in Italia poi modelli la cultura dell'opinione pubblica. Ecco, dicevamo, bisogna fare una scelta preceduta da un ampio dibattito sul tipo di Stato in cui si vuole vivere. Per carità, noi abbiamo ordinamenti dove è prevista la pena di morte, nonostante la moratoria che siamo riusciti ad ottenere all'ONU contro la pena capitale, ci sono ordinamenti in cui l'ergastolo c'è, però dobbiamo decidere. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo il 9 luglio del 2013 è intervenuta dicendo che l'ergastolo è in contrasto con i diritti umani sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo è costituzionalizzata in Italia ai sensi dell'articolo 11 della Costituzione, e si decida, cioè, se noi vogliamo uscire dall'Europa, vogliamo uscire da quella convenzione che tutela i diritti umani più elementari, benissimo, lo si faccia attraverso un percorso anche legislativo che evidentemente però dovrà essere sottoposto a tutti gli italiani, ripeto, previo un serio e approfondito dibattito su tutte queste questioni. E voi dunque contate intanto di raccogliere queste 500.000 firme? Noi contiamo di raccogliere queste 500.000 firme. E soprattutto di parlarne, di aprire un dibattito. Le firme si possono raccogliere non solo sui banchetti, come lei ricordava all'inizio della trasmissione, ma ricordiamo che abbiamo inviato i moduli dei 12 referendum in tutti gli 8.000 comuni italiani, quindi chiunque si può recare presso le segreterie comunali, e noi contiamo molto anche in questo metodo di raccolta. Ciascuno si può recare nelle segreterie comunali del proprio comune per sottoscrivere i referendum, e speriamo che una volta raccolte le 500.000 firme, speriamo innanzitutto di raccoglierle, si possa aprire appunto un dibattito, poi magari verrà bocciato, ma intanto firmate così che se ne possa parlare. La percezione però molto diffusa nell'opinione pubblica italiana, al di là della sensibilità o meno sulla rieducazione di un condannato per delitti molto efferrati, è quella di una mancanza di certezza della pena. Claudio Giusti, c'è anche una proposta, per esempio, che mi è venuta recentemente da un procuratore in prima linea contro la mafia, che dice: istituiamo almeno la carcerazione dopo il secondo grado di giudizio, così da non aspettare il terzo grado. Giusti? Questo è un vecchio problema. Faccio notare che io non sono più in Amnesty International da ormai 20 anni, e che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non ha recentemente vietato l'ergastolo. Precisiamo, quindi, l'OP, Life Without Parole, senza la possibilità di rilascio anticipato sulla parola. Per quanto riguarda invece la certezza della pena e il secondo livello, eccetera, forse faremo bene ad adeguarci a quello che accade negli altri paesi. Per esempio, la prescrizione si interrompe con l'inizio dell'azione giudiziaria e non continua all'infinito come accade da noi. Poi, prima di avere l'appello bisogna dimostrare di avere degli ottimi motivi. Cioè, da noi c'è una sorta di automatismo dell'appello, che in molti casi porta alla prescrizione. E quindi diciamo che in molti posti, intanto, se ti presenti, chiedi l'appello, devi essere lì. Se te lo negano, ti sbattono in galera senza troppi complimenti. Qui da noi lo puoi fare anche contumace. Cioè, ci sarebbero queste cose da rivedere, che sono faccende molto delicate, e non sarebbe male appunto che in Italia in particolare per i crimini particolarmente gravi, prima di lasciare in giro persone che hanno una condanna in primo grado, non so, a 30 anni, se ci fossero ottimi motivi e non dei semplici automatismi. Io vedo la faccenda. Concluderemo pochissimo, però, perché abbiamo gli aggiornamenti e è arrivata l'ora del notiziario delle 9. Dunque, restituiamo la linea alla regia e poi torneremo per le conclusioni su questo referendum destinato a far discutere. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Stiamo parlando di ergastolo oggi, ancora buongiorno da Irene Zerbini. Contenuto in uno dei referendum per cui i radicali stanno raccogliendo le firme, uno del pacchetto dei 12, questa richiesta dell'abolizione dell'ergastolo, perché anche la Corte europea ha detto che questa pena violerebbe i diritti umani tutte le volte che non sia previsto nell'ordinamento di un dato Stato che oltre i 25 anni di detenzione il condannato possa chiedere anche a un organismo indipendente un alleggerimento della pena. Quindi si è pronunciata in questo senso la Corte di Strasburgo. E è interessante, Claudio Giusti, questa sottolineatura che lei ci stava facendo. Giusti, lo ricordiamo, è il cofondatore della War Coalition Against the Death Penalty, riguardo alla certezza della pena, perché anche gli interventi dei nostri ascoltatori sono in quella direzione. È chiaro, oggi si sta parlando di una proposta specifica che non è un cavillo solo formale, ma ha un profondo significato culturale, l'abolizione del fine pena mai, però gli ascoltatori si lamentano di questa percezione caratteristica dell'Italia e molto, molto presente nell'opinione pubblica, che in realtà non ci sia certezza in Italia che poi chi è condannato arrivi a scontare la pena, al di là della questione ergastolo. E lei ci ha detto l'appello, si è soffermato su questa situazione. In Italia è un automatismo l'appello, il secondo grado, il terzo grado, i tempi infiniti poi, e quindi la giustizia anche quando c'è arriva tardi, arriva troppo tardi. Altrove non è così, questi tre gradi dove sono previsti? Oddio, allora mettiamo, io mi occupo di diritto penale americano. Sì. E negli Stati Uniti, nel rarissimo caso che si faccia un processo, perché il 96% delle condanne viene ottenuta con il patteggiamento, il processo, che è appunto un fatto raro, chiude la baracca, perché le giurie americane non sbagliano per definizione. Quindi se gli hanno dichiarato non colpevole è quasi impossibile riprocessarli, non impossibile ma quasi. Mentre se vi hanno condannato avete qualche speranza di convincere una corte d'appello che la giuria è stata indotta in errore e che quindi bisogna rifare di brutto il processo. Questo appello può diventare una messa cantata pluridecennale. Nei casi di pena di morte, che sono quelli che seguo, c'è gente che, cioè, normalmente si sta a 10-12 anni nei vari appelli. E c'è gente che c'è stata 30 anni, 35 anni. E qui stiamo parlando di detenuti che nel frattempo sono reclusi nel braccio alla morte in attesa della sentenza capitale. Per gli altri, ottenere l'appello non è facile, e una volta che si è arrivati in appello non c'è alcuna certezza che annullino il processo e lo rifacciano di brutto. Gli appelli però sono percentualmente pochissimi rispetto alla massa, sì. Rispetto alla massa, diciamo così. Quanti sono? Lei prima ci parlava degli omicidi, tanto per dare dare qualche numero su questo arcipelago che non è mai misurato, non è mai quantificato in Italia. Quanti sono in Italia? Ce l'ha detto, 500 contro i 2000. 500 contro i 2000 del 1991, e negli Stati Uniti, per esempio? Negli Stati Uniti dai 25.000 del 1991 sono arrivati a solo 15.000, con un tasso di omicidio che è 5 volte il nostro. Certo, perché bisogna fare anche il rapporto con la popolazione, che è sui 300 milioni contro i 60 milioni nostri. Un tasso di omicidio altissimo, e effettivamente loro avrebbero da lamentarsi sulla sicurezza, ma in proporzione ce ne lamentiamo molto di più noi. Comunque la certezza della pena, la certezza del diritto negli Stati Uniti non ci sono, eh? Non so poi dove ci siano in qualche altro paese, ma non credo. Quindi attenzione anche a prendere come modelli degli organismi, dei sistemi giuridici che probabilmente sono molto distanti anche dalla nostra mentalità, dalla nostra cultura. Si pensi alle sentenze di pena di morte eseguite di fronte ai familiari, cioè qualcosa che in Italia fa accapponare la pelle. A proposito d'Italia, l'ultima possibilità anche per i nostri ascoltatori di esprimere un'opinione su questa tematica poco dibattuta e di cui si discuterà nell'opinione pubblica molto di più se si raggiungeranno quelle 500.000 firme e verrà riproposto questo referendum per l'abolizione dell'ergastolo. Domenico, buongiorno, brevemente. Buongiorno. Sì, io penso, buongiorno. Sì, buongiorno. Che ammettere che ci sia una pena di morte o un ergastolo vuol dire che la società che la commina ammette la sua incapacità di rieducare. E siccome è una società è vitale, una persona che uccide è un soggetto antisociale, vuol dire che non ci facciamo mai carico dei nostri errori educativi, dei nostri stessi concittadini. Quindi sì che dovrebbe abolirla, sì che dovrebbe cambiare il sistema carcerario e sì che dovrebbe anche dare una maggiore certezza alle pene e ai reati e probabilmente anche ridurli di durata, proprio perché deve essere vissuto come una rieducazione o reinserimento. Cioè lei sta dicendo che una società che accetta di avere l'ergastolo di fatto dice non sono in grado di rieducare. Esatto, ma non solo, dice quelli sono dei poveri derelitti che hanno sbagliato, è sotto capo espiatorio. Farsi carico della responsabilità dei propri cittadini vuol dire no, chiunque deve poter essere reinserito. E nella società italiana che vive collegata alla morale cattolica, che questo dice alla fine della fiera, sembra veramente paradossale. Grazie a Domenico. Dunque, ha sentito Giuseppe Rosso di Vita, pronto? Sì, ho sentito e evidentemente questa è l'impostazione di fondo che anima questo quesito referendario. Il discorso è esattamente quello, purtroppo dobbiamo ritornare lì, sulla non sulla informazione ma sulla disinformazione, nel senso che ecco, nel 1991 abbiamo parlato di 2000 omicidi, il dato, almeno quello che conosco io, è leggermente diverso, ma mi è rimasto impresso perché è facile ricordarlo. Nel 1991 ci sono stati in Italia 1991 omicidi. Adesso appunto ce ne sono 500, ma la percezione che gli italiani hanno a causa delle trasmissioni televisive di cui si parlava, ma anche dei telegiornali, pensiamo come è cambiata il confezionamento dei notiziari italiani. Oramai c'è sempre la notizia di cronaca nera, quella che suscita indignazione, appunto dove si appunta l'attenzione sull'omicidio efferato, sul crimine efferato, sul singolo episodio efferato. Di dati complessivi non se ne parla mai. E questo una discussione dall'audience e di anche dalla politica. L'ho detto, sì, anche perché non sarà colpa sola delle trasmissioni televisive. No, assolutamente, le trasmissioni televisive in Italia sono molto poco libere e quindi è la politica che spesso vuole appuntare l'attenzione su questi dati. Noi abbiamo avuto campagne elettorali che si sono giocate a chiacchiere sulla sicurezza, ma a chiacchiere, facendo disinformazione. Faccio l'esempio sempre un bottino di voti. Della Norvegia di cui parlavamo prima. In Norvegia, con quel sistema, con quelle carceri, con quelle pene, solo il 20% dei detenuti, una volta usciti dalla galera, tornano a delinquere. In Italia, proprio perché c'è tutto un sistema da riformare, il 70% dei detenuti torna a delinquere. E sono questi i dati su cui sarebbe interessante anche riflettere, ma la devo salutare. La devo salutare perché... Questo significa fare meno sicurezza, grazie. Chiaro, è chiaro anche questo ultimo numero che ci è stato dato, 20% dei detenuti rieducati, riavviati al lavoro, torna a delinquere in quei laboratori, alcuni ci segnalano proprio questo, la popolazione, chiaro, della Norvegia non è paragonabile in termini numerici a quella italiana, ma in questi laboratori piccoli, più piccoli, a volte si possono cogliere delle pratiche positive che si potrebbero mutuare anche su più larga scala. Ci sono altri paesi, Svizzera, Spagna, Portogallo, l'hanno già fatto, il Vaticano, l'abbiamo citato, abolire questa forma giuridica. Per ora la discussione è avviata e poi dopo la raccolta delle 500.000 firme, chissà, diventerà un qualcosa su cui dibattere in forma più ampia. Chiudiamo questa pagina e ringraziamo Giuseppe Rosso di Vita per essere stato con noi, l'avete sentito, l'ultima voce, è un avvocato penalista componente del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani, Claudio Giusti della World Coalition Against the Death Penalty, quindi lui si occupa di pena di morte, di sistema giudiziario americano, e con noi anche Tommaso Andria, consigliere dell'ambasciata italiana a Oslo. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got? For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Che voce, che voce, quella di Johnny Cash con Fiona Apple. E questa è una cover della canzone di Cat Stevens, Father and Son, la ricorderete. Nel 2003 Johnny Cash ha pensato di rifarla perché c'è tutta la poesia della solidarietà, del passarsi il testimone tra padre e figlio in questo testo bene riuscito. E c'è in qualche modo a fare da sfondo anche il tempo che passa, il tempo che avanza, l'età. Questa età che si accompagna a volte a dei cliché, dicevamo. La percezione in Italia del segmento della popolazione che ha più di 60 anni, 65 anni, è sempre quella di qualcuno da aiutare, da compatire, comunque da escludere dal processo non solo di produttività, ma anche dal processo decisionale delle famiglie, per esempio. Manca quel rispetto con cui ci si rivolgeva una volta agli anziani, ritenendoli portatori di quella saggezza che avrebbe potuto aiutare anche i più giovani, ma soprattutto manca quella percezione che ormai anziano non si diventa più a 65 anni, così solo perché si gira una pagina, perché si gira una pagina di calendario e passa un compleanno. Gli ANTA, come sono stati ribattezzati, vivono una condizione invece di estrema vitalità che spesso passa inosservata. Basta controllare quanti si danno al ballo, quanti si danno ad appuntamenti, quanti si danno ad attività culturali, viaggi e anche attività sessuali. Ma in una società che ha battuto 1000 e più tabù, quello degli ANTA rimane tale. Alessandra Graziottin, buongiorno, benvenuta tra noi. Buongiorno a tutti. Alessandra Graziottin è la direttore del centro e la direttrice del centro di ginecologia dell'ospedale San Raffaele Resnati di Milano, però è anche una sessuologa, una nota opinionista di queste tematiche, una persona che riesce sempre a comunicare qualcosa di inatteso, a parlare fuori dal coro, e anche sulla percezione degli ANTA a le sue teorie, le sue sfumature da condividere con noi oggi. E spesso si pensa a questa età come a decadimento, ineludibile decadimento fisico che si accompagna a un ineludibile decadimento mentale, ma è ancora così? Il rischio c'è, però la ringrazio anche per le gentili parole con cui mi è presentata. Direi che oggi abbiamo una grandissima opportunità, abbiamo allungato la vita, la grande scommessa è quella di allungare l'aspettativa di salute, ed è questo su cui noi dobbiamo tutti investire impegno, senso di responsabilità, ma anche un grande entusiasmo. Per esempio, noi sappiamo che abbiamo tutti una riserva funzionale. Cosa vuol dire? Come si chiama macchina in riserva, c'è ancora un po' di benzina. Bene, tutti i nostri organi hanno questa riserva. L'intelligenza è proprio quella di lavorare perché la riserva non solo sia sempre attiva, presente, colma, ma addirittura perché venga potenziata. Faccio degli esempi concreti. Per esempio, le donne a 50 anni hanno tutta la preoccupazione dell'osteopenia, dell'osteoporosi, hanno la preoccupazione ma non fanno nulla, o quasi, molte, per rimediare o prevenire questo problema. Poche però si preoccupano, se non dal punto estetico, dal punto di vista estetico, della perdita di muscolo, la cosiddetta sarcopenia. Cioè lo accettano, semplicemente viene... Sì, si lamentano che cade il braccino, oppure sono quelle che vanno a farsi la chirurgia plastica e poi sembrano un reticolato di guerra perché sono piene di cicatrici da tutte le parti. No, il punto è un altro, che noi non dobbiamo pensare che la donna sia un osso che cammina, uno scheletro che cammina. Se io voglio mantenere dignità e autonomia, devo pensare che il mio corpo ha bisogno di muscoli, ossa, articolazioni, tendini, e un cervello che li comanda. Allora, per fare questo, che cosa? Non posso più ragionare in termini di ossa, devo prendere la vitamina D, certamente, il calcio, certamente, prendere magari calcio addensanti che costano una cifra, devo fare altro, devo pensare che la funzione crea l'organo e quindi muovermi. Un'oretta al giorno almeno di camminata veloce. Un approccio attivo, ma soprattutto che costruisce tessuti, che costruisce il cervello, che li comanda, perché il cervello è uno degli organi più dinamici che ci sia. Se io lo uso, continuo a creare connessioni e quindi, anche se perdo neuroni, questo succede, ma ho miliardi di cellule nervose, basta che le connetta. Se le connetto, il mio cervello funziona in maniera splendida, anche se ho 60, 70, 80, 90, 100 anni. Come e quindi anche la qualità della vita. Lei dice, non puntiamo solo al numero. Ieri c'erano due pagine sulla stampa su questi longevi centenari. Quali sono i loro segreti? I segreti dell'elisir di lunga vita. C'è un boliviano di 123 anni che riesce a sopravvivere in buona salute a 4000 metri d'altezza. E c'erano altre testimonianze di over 65. La ricetta, dice Umberto Veronesi, è nella poco cibo e tanto amore sintetizzato. L'invecchiamento è parte del DNA, è una necessità biologica, non è però in sé né un bene né un male. Ma è proprio così? Enrico Pugliese, buongiorno. Buongiorno. È una fase della vita poco indagata, oppure sì, proposta in Italia, presentata solo secondo il cliché pietistico, se vogliamo, dell'anziano che attraversa la strada col bastoncino, quando in realtà essere oltre i 65 anni vuol dire far parte di un segmento della popolazione a volte molto libero anche economicamente. Sì, guardi, il concetto di terza età, non come l'ultima parte della vita, ma come una parte della vita compresa tra la seconda, l'età adulta, e la quarta età, che effettivamente è quella della dipendenza, diciamo possibilmente per il minor numero di persone possibile, venne introdotto con forza da un grande demografo storico di Cambridge che si chiamava Peter Laslett. E lui scriveva negli anni 70 e negli anni 80 e notava come in realtà intorno a quell'età, tra i 60 e i 65 anni, si realizzavano per le persone delle condizioni particolarmente positive, cioè se aveva un reddito, perché all'epoca ancora crescevano le pensioni, non come ora che vengono tagliate. Contemporaneamente c'era un mercato del lavoro un po' meno precario di quello attuale, i figli se ne andavano di casa e quindi non bisognava mantenerli, come è già stato accennato, le condizioni di salute, si cominciava a invecchiare già in condizioni di salute buona. Ovviamente ci sono sempre dei differenziali di classe su questo tema, cioè gli operai invecchiano prima, invecchiano in condizioni più difficili e i poveri muoiono a un'età più giovane di quella dei benestanti, e purtroppo non è la vecchiaia uguale per tutti. Quindi l'Aflet introduce un po' come una bomba nel dibattito questo discorso della terza età come un'età, se si vuole, di libertà, un'età di è garantita sostanzialmente dallo sviluppo dei sistemi di welfare. Pugliese, lei è docente di sociologia del lavoro presso la facoltà di sociologia dell'Università La Sapienza di Roma e nel suo libro La terza età, anziani e società in Italia, lamenta proprio il fatto che questo aspetto della terza età come elemento positivo, come elemento di libertà, non sia sufficientemente indagato e rappresentato anche nel nostro paese, non sia più negli anni Ottanta, però forse questa lacuna è ancora, si registra ancora. Mi faceva riferimento, purtroppo non sono patrimonio esclusivo del nostro paese, queste cose, questi cliché esistono un po' dappertutto, tra l'altro anche tra gli studiosi. Per esempio, tra gli studiosi più avveduti ora c'è la denuncia di quella che loro chiamano demografia catastrofista, cioè parte in realtà siamo invasi da vecchi costosissimi, mentre la realtà è completamente diversa, insomma. Sì, è sempre un carico, è un carico per la società, la persona che ha superato i 65 anni, eppure questo elemento e questo segmento della popolazione è destinato a crescere fino a diventare nel 2049, secondo i dati ISTAT, il 32% della popolazione. Ma ora mi l'Italia. Parlo, professoressa, prima già lo accennasse, il grosso. Dobbiamo provare a richiamarla perché abbiamo forti difficoltà, professor Pugliese, a seguire il suo discorso con questa qualità della linea. Professor, dottoressa Graziottin, l'anziano che è sempre un carico e poi lo si deve, lo si può ancora chiamare anziano? A quale età si diventa anziani? Io direi innanzitutto non parliamo più di questo carico, ci sono due elementi importanti per non essere un carico. Il primo è proprio quello di mantenere, come dicevo, autonomia, e per autonomia dobbiamo avere un'autonomia motoria, un'autonomia di cervello e un'autonomia di competenza sintetica. Quindi questi sono i tre elementi che ci consentono di stare da soli, nel senso di stare bene da soli, fino a 100 anni. Il secondo elemento, lei lo accennava prima dell'entrata, era quello degli affetti, e questo è, citando Veronesi, oltre al mangiare poco, che è un altro elemento molto importante. Sappiamo che i topi di laboratorio, se noi li teniamo a una dieta ipocalorica, vivono il 30% in più rispetto a quelli a cui diamo un regime alimentare libero. Ok, una buona regola perché? Ma non solo perché siamo dei fanatici dell'alimentazione limitata, ma perché sappiamo che l'alimentazione ipercalorica, soprattutto quella squilibrata in zuccheri e grassi, comporta obesità, alterazione del metabolismo, ma soprattutto un concetto che è poco presente nella nostra popolazione e nella nostra cultura. Noi più siamo sovrappeso, più siamo infiammati. Quando si dice cellulite, ite, è un'infiammazione del tessuto adiposo, e più siamo infiammati, più siamo a rischio di malattie degenerative del cervello, quindi Alzheimer e Parkinson, di malattie cardiovascolari e di tumori. Di converso, Time addirittura ha dedicato una copertina proprio al Secret Killer Inflammation nel 2004, tanto per dire che sono 10 anni che se ne parla. E quale sarebbe questo Secret Killer? E l'inflammazione, inflammation. L'infiammazione, l'essere infiammati porta. È il killer segreto della nostra salute. Il punto positivo è che se noi mangiamo in maniera adeguata, bilanciata, leggermente ipocalorica, quindi siamo normopeso, ma soprattutto, arrivo al secondo punto, se noi facciamo un'ora di movimento fisico vivace al giorno, non a scannamento, non andando in affaticamento perché quello diventa pro-infiammatorio, ma se noi tutti i giorni facciamo una passeggiata veloce, un po' di ginnastica a corpo libero, quindi cose che possono fare tutti, lei prima diceva un'altra cosa importante, che non si invecchia in maniera uguale per tutti, ma noi dovremmo portare proprio le classi meno agiate ad avere stili di vita che hanno basso costo, camminare e fare sport a corpo libero non costa nulla, e facendo questo noi arriviamo a ridurre fino al 30% il livello infiammatorio. Discorsi, questo il movimento fisico ci fa bene, discorsi, capito? Che si intrecciano alla, esatto, questione della dignità, dell'autonomia, dell'indipendenza. Pensate che il rapporto ISTAT mostra che ormai l'età media è passata dai 71 anni per gli uomini, 77 sette per le donne registrate agli inizi degli anni 80, ai 77 anni per gli uomini e 83 anni per le donne. Ma se si vive questa fase della vita esclusi, con una tendenza all'isolamento, con una scarsa autonomia che parte dal corpo, perché dal corpo non si può prescindere, motoria, ma con una scarsa autonomia anche mentale, è chiaro che questo avanzamento di vita non corrisponde però in un avanzamento in qualità della vita, e questo è l'obiettivo che la dottoressa Graziottin ci diceva bisogna porsi, obiettivo tra l'altro raggiungibile, dico bene? L'aspettativa di salute può arrivare idealmente a coincidere con l'aspettativa di vita. Ricordo mio nonno a 85 anni, fino a 85 anni camminava, si leggeva 3 quotidiani al giorno, si ascoltava i suoi concerti, era adorato in famiglia, poi si è fatto una broncopolmonite in 3 giorni, il venerdì, alla domenica eravamo lì tutti, figli, nipoti, pronipoti, eccetera, è morto in casa, seguito dalla moglie e dall'affetto di tutti. E io questo ricordo di questo nonno, colto, intelligente, che mi ha insegnato a leggere quando ero piccolissima, che è stato un modello straordinario, che mi chiamava Cucciolina, che ha portato proprio a coincidere l'aspettativa di salute, una piena dignità, una piena autonomia e un'autorevolezza anche nella famiglia, perché è una persona molto colta, molto intelligente, molto posata, fino a 3 giorni prima di morire. Questo è l'augurio che faccio a tutti gli ascoltatori, a lei e a me stessa, di portare veramente la nostra salute a coincidere con la fine della vita. Questo è il grande obiettivo, non continuare a allungare la vita e passare 20 anni paralizzati in sedia a rotelle, dementi, in un istituto di cura. Questo è quello che stiamo facendo. No, noi dobbiamo lavorare tutti per l'aspettativa di salute, e lei parlava di movimento e di isolamento. Pensiamo al ballo, un'altra cosa che possono fare tutti a costo bassissimo, se non zero. Il ballo, abbiamo degli studi stupendi pubblicati sul New England Journal of Medicine, che per noi medici è la Bibbia, il giornale più autorevole, che dimostrano che le coppie che ballano hanno un rallentamento molto significativo del deterioramento cerebrale, oltre che motorio, eccetera. E quindi un anti-age, ma anche un anti-Alzheimer, un antidepressione, un anti-Parkinson. Allora, muoviamoci, ma perché il ballo più di tante altre? Perché il ballo più di altre attività, infatti? Innanzitutto perché per ballare lei deve avere per l'appunto una bella autonomia motoria e cerebrale. Poi c'è un aspetto interessantissimo che riguarda di nuovo tutti noi di tutte le età: il potere della musica nel sincronizzare e coordinare i nostri movimenti. Pensi per esempio che i pazienti che soffrono di Parkinson e non riescono, magari perché hanno già una forma avanzata, a compiere determinati movimenti, se li facciamo muovere col ballo, perché adesso ci sono tutti i programmi di recupero che usano proprio il ballo, riescono a compiere movimenti che senza musica non riescono più a compiere. E poi il ballo comporta di solito anche un avvicinamento sentimentale a un'altra persona, o un appuntamento. Anche se non è sentimentale nel senso di innamoramento, però c'è la liturgia del corteggiamento, e poi così vicini si sentono reciprocamente i famosi feromoni, il profumo di donna, il profumo di uomo. Poi per andare a ballare viene a essere introdotta nella vita delle persone, anche anziane, un elemento importantissimo che viene invece abitualmente perso: l'appuntamento. Lei pensi, tutti noi giovani, o meno giovani, siamo pieni di appuntamenti, andiamo da lì qua, andare di là, e soprattutto abbiamo appuntamenti dove c'è un corteggiamento, se non una simpatia più importante, se non un amore. Ecco, prolungare la stagione del corteggiamento, la stagione della ritualità dell'amore, di questo corteggiarsi meraviglioso, questo danzare insieme. Ma lei pensi che potenza di giovinezza ha a livello cerebrale? E perché? Perché mi si alza la dopamina, che è non solo neurotrasmettitore della voglia di fare, ma anche quello del movimento, ed è quello che coordina il pensiero logico lineare. Muovendosi si pensa meglio. Cioè adesso lei è un fiume in piena, dottoressa, ma la devo interrompere, abbiamo colto. Perché mi piace l'idea di aiutare le persone, lo faccio nel mio lavoro quotidianamente, a riconquistare questo entusiasmo per la vita. Entusiasmo per la vita. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Chi viaggia di più? In quest'epoca che ha fatto registrare una crisi del turismo, con abbiamo sentito da parte del nostro corrispondente giapponese, comunque con una percentuale di vacanze, di viaggi, di giorni di ferie invidiabili. solo agli occhi dei giapponesi, cioè sulle 2 settimane. Chi viaggia di più? Chi continua a viaggiare tanto? Coloro che hanno più di 65 anni, questo ci dicono le statistiche. Hanno speso, gli italiani over 65, 1.344 euro a testa. Le altre fasce d'età ne hanno spese 1.203. Questa è la spesa media di viaggio. Sono stati soprattutto viaggi domestici, ma sono stati tantissimi anche quelli all'estero. In preferenza le mete sono state europee. Si pensa poco agli anziani come persone autonome in grado di prendere decisioni per quel che li riguarda, e spesso queste decisioni sono ostacolate anche dalla famiglia, la famiglia che tenderebbe a volerli più passivi in casa, che aspettano la visita del nipote o del figlio. Ci scrive un'ascoltatrice: non sono io a essere a carico nonostante abbia più di 66 anni, sono gli certi adulti, certi figli a essere un carico, e i miei figli adulti sono coloro che vengono aiutati da me e non viceversa. Clelia, grazie per questa segnalazione. Carla Cantone, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno. E lei è il segretario generale del sindacato pensionati italiani. Forse dal suo osservatorio ci può dire meglio come sta la situazione davvero. Sono gli anziani a essere un carico o sono questi figli adulti, a causa anche della crisi e dei salari che in Italia sono vergognosamente bassi, a doversi affidare all'aiuto di chi ha più di 65 anni? Come stanno le cose? Beh, diciamo che c'è l'uno e l'altro, ci sono anziani che dipendono dai figli, dai nipoti, dalla famiglia perché non sono autosufficienti né per una questione di salute oppure anche perché hanno un reddito da pensione molto basso e spesso devono stare in famiglia a farsi aiutare. Poi c'è l'altra questione che è emersa in modo forte, quasi violento direi, negli ultimi 3-4 anni con la grande crisi che è calata sul nostro paese, non solo sul nostro paese, e cioè il fatto che i genitori anziani o comunque i nonni sono l'ultimo ammortizzatore sociale, a volte l'unico ammortizzatore sociale per una famiglia. Guarda, si vive con le pensioni. Un fenomeno particolare. Fino a 7-8 anni fa gli anziani che non erano autosufficienti perché non godevano di una situazione come ci ha descritto la dottoressa prima, che io condivido in pieno, ma hanno tanti problemi di salute, per cui per non averli a carico, non doverli curare, ecco, mettiamola così, perché le donne, la famiglia lavora, e quindi si hanno depositato, io uso questo brutto termine, ma purtroppo è così, gli anziani in alcune case di riposo, comunque negli ospedali. Il fenomeno che sta avvenendo negli ultimi 3 anni inversione di tendenza. Questi figli vanno a riprenderseli, se li riportano a casa, perché hanno bisogno della loro pensione e non devono più pagare la retta di una casa di riposo, di un ospedale o di una residenza per anziani, perché quella retta serve a loro per poter vivere, perché in quella famiglia ci sono figli che non lavorano, ci sono donne che hanno perso il posto di lavoro e ci sono adulti che hanno o un lavoro precario oppure non hanno un posto di lavoro perché a 50 anni magari espulsi dal posto di lavoro e non trovano più niente. Sto dicendo che la crisi e la disoccupazione pesante che c'è nel nostro paese ha fatto sì che gli anziani oggi diventano una stampella spesso per i loro nipoti, i loro figli e per le famiglie. Ammortizzatore sociale. Quindi, in mancanza di uno Stato che invece non provvede. Questo è un fenomeno noto. 800-24. No, è una, se posso aggiungere, sì, Carla, dica. Diciamo che stiamo vivendo in un periodo dove il modello di società che si sta delineando non solo per la crisi ma anche per le scelte politiche che sono state fatte e quindi nessuna idea di politiche sociali per gli anziani obbliga l'anziano o a prendersi carico oppure ad essere spesso isolato e abbandonato e considerato un peso. Questo è gravissimo, per cui è gravissimo ed è molto lontano di società. È molto lontano dalle tendenze che invece le statistiche, i numeri ci mettono sotto gli occhi. Dall'80 al 2005 il numero di coloro che hanno più di 65 anni è aumentato del 50%, ma il numero di coloro che hanno più di 80 anni è aumentato del 150%. Quindi sì, non si può. Si vive di più. Certo, per fortuna. Quindi non si può ostinarsi a una politica che gira la testa dall'altra parte. Brava, perché se si vive di più la popolazione anziana aumenta ed è tutto evidente che bisogna adattare la società per farla diventare una società anche a dimensione di vecchiaia. Gli anziani aumentano sempre di più, noi abbiamo bisogno di un sistema di servizi, di assistenza e anche di reddito, che mi piacerebbe anche discutere di questo, perché anziani poveri ce ne sono tanti, mica tutti possono andare a fare grandi viaggi, dipende da che reddito hanno. Per cui tu devi adattare la società a un modello che cambia, renderla una società più uguale, una società basata sulla giustizia sociale, due parole che sono sfruttatissime, ma che bisognerebbe declinare. Che cosa vuol dire giustizia sociale? Vuol dire che c'è un'idea di uguaglianza che dà risposta ai bisogni di tutte le persone che vivono in una determinata società. Guarda, si parla tanto, Carla Cantone, di discriminazioni e sembra che ormai la persona sopra i 65 anni sia oggetto di chiare discriminazioni, non sono solo mentali o culturali, si pensi alla questione socio-economica a cui lei ha accennato, si pensi alle pensioni minime sotto i 500 euro di cui parlava anche ieri, contestualmente alla presenza di pensioni d'oro in questo paese, e quindi alla questione di equità. Tutti i temi che affronteremo tra poco anche con voi, 800 24 00 24. Giorgio, buongiorno. Giorgio da Bologna. Buongiorno, siete molto carini, bella trasmissione. Ho 63 anni e niente, sono in pensione, ho avuto anche problemi di salute, non è che sono in pensione. Per i problemi di salute, problemi di lavoro, tutto quanto, sono dovuto andare in pensione con l'invalidità, ma se devi vivere, sì, appunto, tutto belle parole, certo, chi sa parlare, chi sta bene, che se non è un'indipendenza economica, se devi vivere con 10 euro al giorno, perché bastano due bollette che te sei fatta con... Che ti annulla l'entrata della pensione? Sì, perché io per esempio, io non è che mi ritengo fortunato, perché non ho figli, perciò posso vivere, sono fortunato perché vivo in Emilia, ho avuto la casa del comune, ecco questo qui, mi ritengo fortunato, ma devo vivere con 10 euro al giorno, e quando c'è questi problemi che devi marcare un euro, che devi fare fatica per pigliarti un caffè, di pigliarti un... cioè la vita cambia, è inutile parlare, qui si parla, se uno parla con la bacia piena, ah, che bello, sai, non hai problemi, c'hai la tua libertà, tu devi vivere con quei soldini lì, tutto il resto dopo ti scombini tutto, la testa, vai, mazzo testa. L'emancipazione, dunque, la qualità, il diritto alla salute di cui parlava la dottoressa, passa innanzitutto dall'autonomia economica. Il resto sono tutte belle chiare, quando si presenta quell'altro personaggio lì che si piglia 1.300.000, il presidente dell'INPS, le pensioni, lui si becca 1.300.000, a me lo prendo, insomma, è meglio che, non dico sì perché questi qui non si vergognano, questi qui hanno le facce toste che sono, ce ne fottono della gente, questi qui, chiacchiere, la gente pensionata deve vivere. Purtroppo, se non ha un'indipendenza economica, tutto il resto verrà a crollare. Grazie, grazie a Giorgio da Bologna. Sentito, professoressa Graziottin? Questa è la realtà di migliaia. È una verità amara e una cosa che grida vendetta al cospetto degli umani oltre che di Dio. è il fatto che sia questo divario scandalosissimo tra gli stipendi d'oro dei super manager politici e le pensioni d'oro, visto che siamo, rimaniamo gli incarichi che ci fa infuriare tutti quanti, e poi che ci siano queste situazioni dolorose e anche di umiliazione, perché giustamente il signore diceva neanche il caffè. Questo minimo di socializzazione, parlavamo dell'importanza di stare in contatto con gli altri, ma un minimo, magari uno te lo offre al mattino, ma te lo dopo il caffè lo offri tu. Quindi è una grande limitazione drammatica. Vorrei però dire due cose importanti, mi sembra, che è lo Stato ha delle grosse responsabilità, però io credo prima di tutto all'assunzione personale di responsabilità nei confronti della propria salute e del proprio futuro. Il vecchio aiutati che Dio ti aiuta, è una verità di fede, cioè io non posso fare nulla e posso anche avere denaro, ma se non ho salute non faccio niente. Allora, il concetto che tutti noi veramente dobbiamo investire di più, per esempio, ma perché fumare? Col fumo ti vai a aumentare l'infiammazione, ti vengono più cancri, più malattie cardiovascolari, più infarti, e anche socialmente una schifezza sia per gli uomini che per le donne. Perché bere un bicchiere, ma non di più, meno possibilmente, non farsi queste bevute, soprattutto per i giovani, questo binge drinking che poi non solo gli va in pappa il cervello, ma rischiano incidenti mortali o lesioni permanenti per la propria vita. Perché, ripeto, non fare questo movimento fisico quotidiano? Il camminare lo può fare chi è nulla tenente come chi è molto ricco. Non è una discriminazione. Ecco, cosa potrebbe fare di più un comune come Milano o un qualsiasi altro comune, ma soprattutto le grandi città? Per esempio organizzare dei corsi di ballo gratuiti, così uno non deve nemmeno pagare l'entrata. E l'organizzare il corso di ballo ha una funzione fondamentale per tutte le ragioni che dicevo prima, perché socializza, perché incoraggia, certo, di nuovo ad avere cura di sé, perché tu esci in una certa maniera, perché ti fa da stimolo cerebrale, ti fa da stimolo motivazione affettivo, motivazione sociale. Per vivere. Altra cosa, abbiamo delle città tenute malissimo, ma perché non viene pensato un pagamento regolare per l'anziano che voglia tenersi a cuore il suo quartiere, oppure la zona, l'aiuola di quella zona, i marciapiedi, i muri? A un certo punto creiamo questi piccoli comitati di anziani che si prendono cura della città. Avremo sicuramente, spendiamo molto meglio i nostri soldi invece che con queste società di servizi dove paghi 100 e il risultato è come se avessi pagato 1, e diamo la dignità e l'orgoglio di dire questa parte della città, questo quartiere, questa zona è curato da noi, A, B, C, D, con i nomi fuori, perché tutti noi vogliamo sentirci responsabili e partecipi di un miglioramento del mondo, e vedere il nostro nome apprezzato fa piacere a tutti, non solo a chi fa il professionista. Vedere che uno dice ma che bella questa zona, guarda che bei fiori, ma guarda che bel giardino, ma guarda come sono pulite queste strade, è un elemento coinvolgimento. Invece nella logica produttiva, così come la pensiamo oggi, l'aspettativa di vita si allunga sempre di più, ma la percentuale, il segmento di vita inattiva dal punto di vista lavorativo fa sì che chi non è inserito, chi percepisce una pensione quando è fortunato, a quanto abbiamo capito, comunque venga vissuto come un peso, e questo ce lo segnalano anche i nostri ascoltatori al 349-238-6666, un peso escluso che non ha diritto in quanto tale nemmeno più a esprimere delle proprie opinioni. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. C'è chi per lavoro è in contatto con una certa fase di anta, diciamo così, e chi per lavoro deve ogni giorno lottare con questioni che riguardano la percezione di questa che è considerata la fase più brutta e più inutile della vita, proprio perché non è più legata a certi ritmi di produttività, e questo porta a delle discriminazioni, senza dubbio anche a delle grosse sofferenze inutili. Ci vorrebbe un'educazione alla popolazione che spinga a rivedere questa immagine. Intanto sentiamo le vostre opinioni all'800240024 e anche vostre esperienze. Cosimo, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione e per tutta la radio. Io mi occupo di gestione di case di riposo, 7 case di riposo tra Piemonte, Lombardia e Veneto, oltre 400 persone assistite su corsi letto per persone non autosufficienti, e tutti i giorni siamo in continuo confronto con una situazione di disparità regionale di diritti, ovvero una persona non autosufficiente con uguali livello di non autosufficienza e quindi di dipendenza in Piemonte attendere più tempo di una persona con gli stessi requisiti in Lombardia. quindi questo cosa significa? Che le persone sono costrette a dover contribuire in modo maggiore, anche le famiglie, alla spesa sociosanitaria per poter pagarsi la cosiddetta retta, che teniamo presente è molto più bassa di una notte in albergo, una giornata in una struttura sociosanitaria. Cioè, ovvero in Piemonte percepiamo circa una retta totale di 78 euro per una persona. Quanto, totale, scusi? 78 euro. 68 euro. Tra pubblico e privato, nel caso in cui vi è una convenzione che poi non viene rispettata perché l'ente pubblico paga 18 mesi, e invece in Veneto abbiamo una retta che pagata regolarmente, puntualmente, ma con un contributo sanitario di 49 o di 57, che porterebbe una retta a 100 euro al giorno circa totale, tutta l'assistenza. Quindi dai 2044 più o meno, a quanto ci dice lei, sì, del Piemonte, si va sui 3000 in Veneto. E abbiamo praticamente un uguale servizio anche con un apporto di assistenza. Quindi non è che si cambia enormemente, non abbiamo una situazione... Nell'erogazione del servizio, però c'è questa disparità regionale. Sì. La Lombardia ha coperto tutti i suoi posti letto praticamente con un contributo, è puntuale, riesce a garantire un posto letto in brevissimo tempo, ha creato delle liste d'attesa informatizzate. Emilia-Romagna, idem, è riuscita anche a fare dei passi avanti su questo percorso. Poi abbiamo delle regioni invece dove, che ne so, la Calabria, dove mi sono affacciato per prospettive lavorative, e ritrovo che c'è un 70% a carico dell'ente pubblico, un 20% a carico della persona assistita come retta della privata, famiglia. Della famiglia, e però i pagamenti arrivano a 36 mesi. Tre anni. Senta, Cosimo, approfitto della sua esperienza e della sua competenza su questo tema per chiederle, rispetto a quanto ci segnalava Carla Cantone, questa tendenza ormai dettata dalla crisi, l'ha riscontrata anche lei in corsia, ad andare a riprendersi il genitore, il nonno ricoverato in una casa di lungo degenza perché non si riesce più a sostenere la retta e perché c'è bisogno della pensione. Ha notato fenomeni di questo genere? La cronistoria le dico esattamente come ha funzionato. Con l'avvento del badantato, cioè badanti non qualificate, sì, c'è stato un rientro a casa nei primi anni del 2000. Poi, capito che la situazione non funzionava, non c'era un'assistenza qualificata di un determinato tipo, anche se meno onerosa, e poi con la regolarizzazione è diventata molto più onerosa, perché se pensiamo che l'assistenza è su 24 ore giornaliere, stiamo parlando di minimo 3 persone per fare un mattino, pomeriggio, una notte, e uno smonto e un riposo, quindi arriviamo a 5. Quindi quanto diventa complessa, quanto diventa costoso avere 5 persone per una sola persona, perché questo qui è la programmazione di un turno. E quindi allora, si è tornati all'utilizzo delle strutture. Grazie a Cosimo, ci segnalava un problema importante. Carla Cantone ha sentito, ritornando a quello che... Sì, ma abbiamo un osservatorio diverso, io e Cosimo, probabilmente. Non c'è dubbio che in alcune regioni le cose stanno come lui ci ha descritto, certamente, ma nella stragrande maggioranza dei casi le cose non stanno così. Tanto è una lotteria quella di poter trovare una casa di riposo, una residenza per anziani alla portata del portafoglio delle famiglie, perché non tutte le amministrazioni locali hanno potuto fare dei progetti e dei programmi di aiuti, di compartecipazione, perché il governo ha tagliato molte risorse ai comuni, alle regioni, e con i tagli che hanno avuto la prima cosa che hanno fatto i sindaci e i presidenti delle regioni è quello di tagliare assistenza e sanità. Questo è stato l'altro grande problema della crisi, e chi ci va di mezzo alla fine sono sempre le persone che vengono giudicate non più utili per la società. Ecco, tornando a questa prospettiva, a questa pagina che lei ha aperto, a questa lettura che ci ha dato, la politica rimane indietro, certo aumenta l'età anagrafica, ma poi di fatto abbiamo sentito anche dalle testimonianze degli ascoltatori, chi riesce a vivere bene è colui o colei che per risorse private personali dettate dai casi della vita spesso più che dal merito riesce ad avere una riserva di denaro, perché le pensioni non coprono. Ma devono cambiare le politiche sociali, perché i casi sono due. Una, sto dicendo un'enormità, o metti un tetto alla vita che oltre una certa età non devi più vivere, ma siccome non può essere così per fortuna, non è così, e quindi l'età media, l'età della vita si allunga, bisogna adattare questa società con politiche sociali diverse. E aggiungo che bisognerebbe, per fare questo, investire in welfare, e investire in welfare significa anche dare occupazione, perché welfare è motore di sviluppo. Se io apro più centri di assistenza, più servizi sociali, non solo do servizi agli anziani, ma do anche occupazione, e in un momento di crisi come questo forse vale la pena di investire in welfare per rispondere ai bisogni degli anziani e contemporaneamente rendere la società più uguale e più giusta. Ci diceva la dottoressa Graziottini anche del coinvolgimento in attività che possano far sì che la persona uscita dal mercato del lavoro tradizionale sia comunque utile alla comunità. Si pensi lei ci parlava del rifacimento dell'arredo urbano, per esempio, di progetti di vita che possono, e all'estero si fa molto, essere affidate a persone che non hanno un posto di lavoro più per raggiunti limiti d'età, ma che beneficiano fortemente di questa, di questo tipo di iniziativa, non solo dal punto di vista della paga, che di solito è abbastanza irrisorio, minima, ma dal punto di vista del sentirsi utili. Perché ancora una volta in Italia si tarda a considerare la convivenza tra generazioni un arricchimento, e si ragiona sempre in termini di peso, di problema, secondo lei, Carla Cantone? La dottoressa Graziottini sa benissimo che ci sono migliaia e migliaia di anziani che attraverso le organizzazioni di volontari del terzo settore già si occupano di temi sociali, di interventi sociali davanti alle scuole, nei giardini. In Italia ce ne sono migliaia di questi casi di anziani che stanno bene e che riescono a svolgere questa attività sentendosi pienamente dentro la società. Purtroppo diciamo che non è ovunque così, bisognerebbe estendere molto questa pratica. Ce ne sono milioni ancora confinati dentro casa, professoressa Graziottin. Sì, io direi che c'è un altro elemento che non abbiamo potuto toccare, che però è importantissimo: il fatto che la donna, per invecchiare bene, ha bisogno anche di cure ormonali. Io insisto su questo: a 40 anni la donna comincia a perdere ormoni, a 50 grazie, va in menopausa, e ha davanti 37 anni. Anni di vita che possono essere tutto il corpo e il cervello della donna, c'è una qualità al massimo.